Yes people, questo è Jolly Roger. Yes people, people, questo è Jolly Roger, puntata di venerdì 24 marzo, prima puntata primaverile. Un saluto a tutti e a tutte le amiche che ci ascoltano, un saluto a tutte le amiche e tutti gli amici che frequentano il Branca. Ultimamente stiamo ripartendo con delle iniziative, appunto questo è un weekend ricco di programmazione, ma ne parleremo più avanti. E ritorniamo a bomba su quella che è stata la puntata di settimana scorsa, cioè il Made in Italy. Parleremo un po' di alla maniera nostra, un po' di cinema, un po' di serie, insomma tutto ciò che è un po' è stato esportato oltre Italia. Iniziamo con il nostro primo pezzo musicale, che dedichiamo al nostro amico Matteo, che mercoledì è entrato nella fase della maggiore età, quindi ufficialmente è diventato maggiorenne il nostro amico Matteo. Domani partono i festeggiamenti, anzi i festeggiamenti sono già partiti da mercoledì e non lo festeggiamo così. You know I like rocking with the ladies. Let's slide. Come get your rhythm and the vibes. Come get your rhythm and the vibes. Come get your rhythm and the vibes. Tell the selector you want. Now watch it, baby, do the electric slide, yeah, baby. The party turn up and we back outside, yeah, baby. 10,000 poles and the dance get nice. So shake your boogie woogie, shake your boogie woogie. You can't see it, it's electric. Yeah, wow. You gotta feel it, it's electric. Turn it up, turn it up, watch out. Ooh, it's shocking. It's electric. Jiggling my cicada, she's a pumping like a medic. She's a moving like electric. She sure got the boogie. You got to know it, it's electric. Boogie, woogie, woogie. But you can't hold it, it's electric. Boogie, woogie, woogie. But you know it's there. I wanna see the man's up one time. Udite udite, è arrivato l'arrotino. Vi aspettiamo al centro sociale Brancaleone, muniti dei vostri coltelli. Attenzione, no, non è un'istigazione all'odio, ma vi aspettiamo all'incontro delle radio indipendenti del circuito Gemini Network. Centro sociale Brancaleone, il 25, prossimo 21. Vi aspettiamo tutte, tutti e tutto, armati con i coltelli del buonsenso, della ragione e dell'intelligenza. Sempre dalla parte del torto. Che fama, che fama, che bella cala gara. Ma che fama, makes my body dance for you. Ma che fama, che fama, che bella cala gara. Ma che fama, makes my body dance for you. E ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18 dal Brancaleone di Made in Italy e anche Gemini Network, il circuito delle radio indipendenti. Domani super mega giornata, quindi questa è per ricordare anche il tema della puntata, che ha per l'appunto il Made in Italy. La settimana scorsa abbiamo parlato di moda, cibo che viene comunque esportato in tutto il mondo, il famoso Made in Italy, la moda, quindi le varie sfilate, i nostri ben amati sarti tipo Valentino, la creazione di nuovi colori come il colore rosso Valentino per l'appunto. Insomma, abbiamo parlato anche un po' di calcio italiano, di quello che è stato il weekend scorso. Insomma, parleremo ancora di Made in Italy. E parleremo di il Made in Italy, oltre a questo, è anche tanta cultura, tanta arte. Abbiamo parlato appunto anche dei famosi monumenti, non solo romani, e ci piaceva anche raccontare un po' quello che è stata, che rappresenta anche il cinema italiano un po' in giro per il mondo. Ricordiamo uno fra tanti, ad esempio Sergio Leone, che ha fatto la sua carriera artistica in America, importando appunto un modello di creando il cinema western. E parliamo anche di serie, perché comunque sono quelle che attualmente compensano le varie uscite dei film. Serie importanti, serie che hanno avuto parecchio successo, dalla quale poi sono stati presi punti di spunto per creare poi i film, che sono diventati abbastanza serie importanti. E uno fra questi, che poi rappresenta anche un po' la Roma, una Roma delinquenziale, comunque una Roma che è stata, perché anche questa è stata Roma, e parliamo della serie di Suburra, che almeno a me ha lasciato molto colpito, perché appunto non solo per quello che è stato Roma, ma anche per una colonna sonora abbastanza interessante. E intanto passo appunto da Suburra, I Sette Vizi Capitale di Piotta. Di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte. Tu in questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma, ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai. Donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma te divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda, nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma te divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco, mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare, nel bianco e nero, io ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda, Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra l'ora e il fango. Roma è un passo a due volteggiando sull'asfalto, Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera, Roma mani infami dentro l'acqua santiera. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma te divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma ti divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi stile mafia capitale, quelli che c'è intorno alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na, non se ne va più a na. Il 25 marzo a Roma si incontrano tutte le radio web della rete Gemini Network al centro sociale Brancaleone. Faremo scintille, non potete immaginare, però potete venire e partecipare. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, per l'appunto si parla di Made in Italy in questa altra puntata, visto che comunque settimana scorsa in un'ora non siamo riusciti a raccontarci tutto il nostro vedere del Made in Italy e abbiamo deciso di proseguire questa puntata. Allora, parto subito con delle domande ai nostri amici, così poi continuiamo la nostra chiacchierata. Allora, vado direttamente con il mic ad Alice. Qual è il tuo programma italiano preferito? Il mio programma preferito è Don Matteo. Perfetto, Don Matteo, una classica serie italiana girata in un bellissimo borghetto che è quel di Gubbio, borghetto insomma, cioè un bellissimo posto, ci sono stato e ho visto anche la corsa dei ceri che è famosa, bella esperienza, bei matti. E comunque proseguiamo, e qual è invece, Luca, il tuo programma italiano preferito? Avanti un altro, condotto da Paolo Bonois e Luca Laurenti. Perfetto, invece per te Matteo qual è il tuo programma preferito? Alessandro Borghese. Mitico, Alessandro Borghese e poi? Quattro Ristoranti. Ah, perfetto, tutti i programmi che riguardano la cucina. Riguardo la notizia proprio ufficiale di ieri che per l'appunto l'Italia si candida all'UNESCO come la cucina italiana si candida all'UNESCO come patrimonio italiano. E noi partiamo, proseguiamo con il nostro pezzo musicale, scelto dal nostro amico Matteo. È stato uno dei primi pezzi che abbiamo passato in radio, è stato uno dei primi pezzi che mi ha fatto conoscere di Blanco. E andiamo così. Banchito baby, money gang gang gang. Come si fa, senza rumore, giri la stanza. Come si fa, sola col tanga, te la strapperei via. E mi fai impazzire. Non ci sei attorno, qua mi va tutto storto. E a lui lo vorrei morto, invece ancora ti scrive. Queste strade si son prese la mia parte migliore. Colpa loro se non mi fido più delle persone. Non esiste un dottore per i tagli sul cuore. Colmo il vuoto con dei tagli di diverso colore. Non so come si fa, senza un rumore. Giri la stanza, come si fa di nuovo dopo una ramanzina. Noi che abbiamo litigato tutta la mattina, solo perché nel pomeriggio esco con un'amica e mi spari mille colpi come una raffica. Ancora basta una tortura. Ti appoggi sulla porta, ti tessimi nuda. Ciò che è un gioco sporco. Come si fa, senza un rumore, giri la stanza. Come si fa, come si fa, col tanga te lo strapperei via. E mi fai impazzire. Mi fai impazzire. Mi fai impazzire. Mi fai impazzire. Anche se mi fai male, senza non ci so stare. Mi fai impazzire. Mi fai impazzire. Quante volte ho detto è l'ultima ma poi invece no. Quante volte ci siamo scambiati il peggio di noi. Tu mi fai impazzire. Quante volte hai detto sta se meglio se te ne vai. Perché sapevi che non me ne sarei andato mai. Tu mi fai impazzire. Sì, tu mi fai impazzire. E mi fai impazzire. Il 25 marzo? No, no, non posso. No, non posso, c'è un impegno, c'è una roba spaziale al Brancaleone a Roma, organizzata da Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Oh, una giornata piena di musica, workshop, teatro, dirette radiofoniche, si mangia insieme, si beve insieme, c'è tutto. Si comincia dalla mattina fino a notte tardi col DJ set. Spaziale, che fa? Ci vieni anche tu? Come ti trovi? Perché ti trovi? Dove ti trovi? Sei perso dentro, freddo e caldo fuori. La gente torna a casa e non riesce più ad uscire. Molti escono di casa e non vogliono... E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questi sono un po' di spot che passeremo, altri ne passeremo in quel della puntata di Jolly Roger. Abbiamo parlato di Made in Italy anche settimana scorsa, stiamo parlando di Made in Italy, abbiamo parlato del, anche di Sanremo, un Made in Italy che produce tanta musica, che fa conoscere cantanti anche oltreoceano. E torniamo a bomba su quella che è, insomma, l'argomentazione di oggi, e faccio una domanda. L'Italia è anche famosa, no, come dicevamo prima, appunto per cinema, per film, serie e compagnia bella, e cioè l'Italia è conosciuta anche per diversi attori che sono diventati attori anche di fama internazionale. Citavo, tanto per citarne qualcuno, appunto, abbiamo deciso di chiedere ai ragazzi quali sono i loro attori preferiti, quali sono gli attori che più magari li rappresentano. E vado con la prima domanda ad Alice. Alice, quali sono i tuoi attori preferiti? Alberto Sordi. Perfetto, quindi Alberto Sordi, che non solo, oltre ad essere un grande attore italiano, rappresenta anche la romanità per eccellenza. Invece Luca, per te quali sono? Allora, ce ne ho ben due, ovvero Gigi Proietti e Alberto Sordi, che una volta ha fatto una bella cosa per farete tutti chiesto. Perfetto, invece per Matteo, qual è il tuo attore preferito? A me... aperto anche per Ciccio Alberto Sordi, poi e poi aperto poi Donti Proietti. Gigi Proietti, e infatti proprio di Gigi Proietti siamo andati a vedere un po' di tempo fa quelli che sono dei murales che hanno fatto in quelle del Tufello, bellissimi, e raccomandiamo a tutti di passare anche a fotografarli. E a Luca, chiedo anche a Lucone, che nel frattempo è arrivato, qual è il suo attore preferito? Massimo Bondi, che si chiama. Ah, perfetto, quindi siamo andati da Roma a Milano, però anche loro, insomma, sono rappresentativi. E andiamo con un altro pezzo musicale scelto sempre dal nostro amico Matteo. Domenica di Achille Lauro. Questa domenica il campionato è fermo, giusto Ciccio? Sì! E noi andiamo così. È come fosse domenica. Come i cani che si annusano, oh no. Oppure i gatti che girano al porto. Negli occhi è rock and roll, ai ai ai. Sembra ti tocchino, oh my god. Città per camino, yeah. Donne pericolose, yeah. L'amore è un overdose. 150 dosi, oh sì. Fanculo e Rolling Stone. Zucchero al lampone, yeah, yeah. Mi ingoia come un po', lei dice come ho, sì, yeah. Poi mi spoglia come un ladro, no. Le tratto bene se non si innamora, no, più tardi in camera, sì, poi ti chiamerò. È come fosse domenica, bevi ancora presto, presto. È come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Domenica. È come fosse domenica. Domenica. Oh no no. E se li fisso non rispondono. Esco dal bagno con tre figlie e moglie. E mamma guarda come dondolo. Ho un brutto voto dopo. dopo il compito. Ah, ah, la sposo come no. Le voglio bene ma mi do per morto. Ah, ah, ah, sta vita un roller coaster. Romanzo rosa, no, piuttosto un porno. Oh, è come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto. È come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Domenica. È come fosse domenica. Domenica. Oh no, no. E ritorniamo in diretta, come dicevamo per l'appunto, con il nostro amico Matteo. Questa domenica non ci stanno le partite, no, meglio, il campionato è fermo per le qualificazioni europee, però noi abbiamo scelto alcune partite sulle quali puntare, giusto Ciccio? Sì. Ah, passo il microfono. Francia, Olanda, vince la Francia, poi... Spagna, ora ci abbiamo la Spagna. Vorrei con Rob, con ricordo via. Vabbè, vai, vai avanti. Qual era l'altra, l'ultima? L'ultima, con Italia. Italia. Marta, Italia. Perfetto. E ora invece passiamo dalle partite alle offerte che ci sono, che ci segnala il nostro amico Luca. Offerte Carrefour Market e Carrefour Iper. Tortine Loacker, peanut butter, gusto burro d'arachidi, pacco da 6 tortine a ben 2,50 €. Nuova Monster di Lewis Hamilton, zero sugar, gusto uva a solo 1 euro. Burro all'aglia a 5,79 € battute. E con le battute ritorniamo dopo il pezzo scelto sempre dal nostro amico Matteo. Ciao a tutti e a tutti, il 25 marzo vi aspettiamo a Roma, al Centro Sociale Brancaleone, dove c'è il Gemini Day, l'incontro di tutte le radio indipendenti d'Italia, dal Piemonte alla Calabria. Workshop, interviste, tanta musica, se magna beh, se beve beh, si sta yeah yeah. Come ti trovi? Perché ti trovi? Dove ti trovi? Sei perso dentro, freddo e caldo fuori. La gente torna a casa e non riesce più ad uscire. Molti escono di casa e non vogliono tornare. È una vita che ti penso, oh oh oh. È una vita che non riesco più a lasciarmi andare con me. È una vita che non cresco, oh oh oh. E non so cosa dirti di me. Sento dentro come se ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dici amore. Vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore. Vieni nel mio cuore, amore, vieni. un mio pretesto, oh oh oh, per poi scrivere meglio di me, ma è come se ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dice amore, vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore. Sogno per te, le cose che vedi, l'amore che cerchi e non trovi, perché tu dimmi perché rimani lì in piedi come l'ultima volta, come lui che non torna, dimmi quelle parole, vieni dentro il mio cuore. Ti guardo, penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dice amore, vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Nel frattempo continuiamo a parlare di Made in Italy, ma visto che il nostro amico Matteo, per l'appunto, abbiamo detto che ha compiuto 18 anni e domani festeggerà con tutta la crew, noi stavamo leggendo il suo menù, è tutto Made in Italy, e quindi abbiamo detto vabbè, ma spoileriamo almeno il menù, quindi passo il mic al nostro amico Matteo. Allora, iniziamo con un arrivo. Poi proseguiamo. Buffet. Allora, buffet, pittone con del 8 gradi con rette, olive ascolane. Olive ascolane, poi proseguiamo. Cioè, comunque sta venendo solo l'acquolina in bocca sulla legge. Vai, vai. Trecce di bufala. Di bufala con mandorle e mozzarella. Perfetto. Poi abbiamo detto ricottine. Cottine con prosciutto crudo con noccia, danni sumi a nito. Perfetto, poi andiamo ai primi perché non possono che non mancare i primi. Mette con mette di lina dal tubo, no, robe con grandi pecche, provalo. Perfetto, quindi questo è un invito domani a intanto a digiunare a pranzo e a proseguire quello che insomma i festeggiamenti del nostro amico Matteo. E ora è il momento delle battute, quindi passo il mic al nostro amico Luca. Sapete perché in Molise non esiste il wifi? Perché c'è Campobasso, vi chiedo scusa molisani. Sapete che verso fa l'uccello robot? Il microchip. Che cosa mangia la polizia scientifica? L'insalata di ris. Fenomeno, fenomeno. La gente è uscita un attimo dallo studio perché è scoppiata in lacrime e noi abbiamo il primo pezzo del nostro amico lì e poi proseguiamo la nostra chiacchierata. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Oh yeah, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than this. No, it don't get better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte. Y no me vení por telescopio. Demasiado alto, ninguno lo copió. Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio. Te volviste loco, te fumaste un bate de opio. Tiene que respetar leyendas, son leyendas. Pida perdón que su palabra que una mierda. Tremendo guaremate, de tapa aguacate. Dale una galleta a un general pa' que te mate. This shit right here. Baby, this shit right here. This that shit that I wanna hear. This that hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la, la, la, la. Have the ba, da, ba, da, ba, ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Get better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Tú eres palo de fósforo mojado, tú no prendes. Tu muffin no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un party, tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla caliente a presión marca Royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la Goya. Que vengan toque el alto los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. I'll be stepping right to the higher level. Stepping with giant steps. And if I fall, la la la la, I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm Kareem Abdul-Jabbar. You're rocking with the best, oh yes, for sure. We stay fresh international. And if you don't know, we gon' let you know. Tell them in Espanol. We say esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than this. No, it don't get better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Vi aspettiamo il 25 marzo al Brancaleone di Roma per il Gemini Day, una giornata di workshop, musica, dirette e birrette con le radio indipendenti di tutta Italia. Seguici su gemininetwork.it. E ritorniamo in diretta, continuiamo a ricordarvi l'appuntamento di domani in quel del Brancaleone di Gemini Day, anche questo ribadisco un altro Made in Italy, e passo il mic al nostro amico Luca che ci racconterà due cosette sulla primavera, visto che ufficialmente siamo entrati in primavera, parliamo e affrontiamo questa nostra nuova stagione sempre in compagnia di Jolly Roger. La primavera è una stagione che fa poco caldo e poco freddo. È un po' umido pure magari, mettiamoci l'umidità. Le giornate iniziano a essere un pochino più lunghe. Questo perché? Che succede domani? Che domani ci sarà un evento qui al Branca. Vabbè, oltre all'evento qui al Branca, che per carità è sempre bello ricordarlo, che c'è domani notte, cosa succederà? Cambierà la luna. Sì, cambierà la luna magari, così almeno ci tranquillizziamo un po' tutti. No, non qua al Branca cambia la luna come suggeriva qualcuno, ma cosa succederà? Piano piano gliela famo, dai. Ci sarà l'orario legale, ovvero che dobbiamo spostare le lancette in un'ora, avanti di un'ora. Di più. No, quindi dormiamo. Quindi dormiamo un'ora in meno. Oh, bravo, però che ci abbiamo un'ora. Un'ora di luce in più. Oh, perfetto. Poi, tornando alla primavera. La primavera, diciamo che è una stagione alquanto bella, perché è ricca di fiori come margherite, i tulipani, le rose rosse. La gente si innamora, perché a primavera tutti si innamorano. Si danno i bacetti. Beh, ovviamente se uno si innamora ci si dà anche i baci, poi... Iniziano a ricrescere le cose, perché come sappiamo tutti, durante il cosiddetto autunno... Cascano le foglie, i fiori, non c'è più nulla durante l'autunno, e perciò la primavera fa ricrescere. Quindi, la tua stagione preferita, visto di stagioni si parla? The summer, ovvero l'estate, che ci sarà il 21 giugno, quando cadrà questa primavera che ci sta ancora e che ci tiene fortuna. Perfetto, quindi questo è... Volevi aggiungere qualcos'altro? A primavera, come cosa, si fa un bel picnic che abbiamo fatto. Vabbè, mo iniziano, esatto, i picnic, iniziano un po' di feste dove ci si può sbracare sui vari prati in giro per Roma. Poi si dipinge per dipingere all'aria tranquillamente, come fai un bel pittore francese. Disegni tranquillamente, e se chi disturba lo devi cacciare fortemente. Vabbè, il disegnare all'aperto ci sta, visto che comunque è la bella stagione, ti può dare ispirazione. Quindi poi cosa succede in primavera? In primavera finisce pure la scuola, perché ancora non è estate. Quando finisce la scuola? La scuola finisce l'8 di giugno. Quindi siamo ancora in primavera. Quindi diciamo che mancano ben 2 mesi e mezzo per arrivare a questa fine di scuola e le benedette vacanze estive, che poi affrontiamole un po' alla volta. Ebbene, proseguiamo la nostra scelta, il nostro ascolto musicale, e poi torniamo sempre in diretta qui dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger, siamo verso la chiusura di questa nostra puntata. Abbiamo un po' raccontato il nostro Made in Italy, quindi il nostro modo di vedere tutto ciò che è prodotto italiano. Non poteva che mancare come argomentazione principale la cucina, che è forse quella che ci rende più famosi in tutto il mondo. E abbiamo raccontato anche un po' di calcio, insomma, è stata una piacevole chiacchierata. E niente, proseguiamo la nostra scelta musicale del nostro amico Luca. Se rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa, mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Wooda, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Torniamo in diretta, ultimi minuti per noi, siamo arrivati ai saluti di quest'altra nostra nuova puntata. E passo il mic per i saluti. Ciao! Ciao a tutti! La prova di Mira, i compagni miei. Perfetto, salutiamo i compagni di Matteo, il terzo, e dell'Orazio, indirizzo linguistico. Poi? Ciao a tutti, ci vediamo venerdì prossimo, saluto i miei professori Mascolo, Aulicino e saluto tutta la mia scuola, è stato praticamente tutto il CHOPS. Perfetto. No, Luco. Yellow white remix.